Risposte all, obiezione islamica, n grado 2. Un solo Dio. Sono certamente miscredenti quelli che dicono, in verità Allah è il terzo di tre. Mentre non c'è, è Dio all'infuori del Dio unico. Sura 5,73. Vorrei sottolineare che non è consigliabile evangelizzare un musulmano iniziando dalla Trinità, perché non conoscono minimamente nulla di questa dottrina. Occorre studiare prima cosa realmente comprendono essi di questa parola, perché i musulmani, come altri, TDG, mormoni, eccetera, vi chiederebbero di mostrare dove appare tale parola nella Bibbia. E, come è risaputo, la parola Trinità non appare mai nella Bibbia. Vediamo cosa dice il Corano a proposito. Non dite, tre, smettete. Sarà meglio per voi. Invero Allah è un Allah. Unico. Sura 4, 171b. Sono miscredenti quelli che dicono, Allah è il terzo di tre. Sura 5,73. Prendete me e mia madre come due divinità. Sura 5,116. Dopo queste premesse risulta comprensibile perché i musulmani hanno difficoltà a comprendere il termine Trinità. Generalmente prendono per assodato un madornale equivoco e si affrettano a giudicarci politeisti, senza fare lo sforzo di appurare se le cose stanno proprio così. Per questo motivo è opportuno, per non litigare, chiedere ai nostri interlocutori interessati se realmente abbiano mai voluto leggere quel che la Bibbia dica a proposito del nostro Dio che si è rivelato come l'unico e vero Dio. Non dobbiamo dimenticare che molti di loro sono degli adoratori sinceri che servono la loro divinità con dedizione entro i limiti della loro religione. Un cristiano non dovrebbe disprezzare le loro profonde convinzioni su questo soggetto, ma dovrebbe amare e rispettare la fede ogni musulmano. Quando i cristiani affermano che parlare di Trinità non significa presentare tre dei, ma tre persone con una unica natura, i musulmani ripudiano questo concetto. Per loro Allah non è un dio trino, ma una persona sola, per cui è scontato che il dio dei musulmani non corrisponde al dio trino della Bibbia, anche se per molti credenti non lo è. Se un musulmano ci dice che il vostro dio e il nostro dio è lo stesso, è evidente che non ha capito chi siano realmente Allah e il dio trino, oppure minimizza intenzionalmente sopra le più radicali differenze. Il punto di vista dei musulmani. Secondo l'Islam, il primo e più grande insegnamento viene proclamato con la Shahada La ilaha illallah Muhammad al-Rasulullah, non quae Dio all'infinito. Per essere un vero musulmano si deve confessare questa frase sinceramente ed in particolare lo devono fare coloro che sono dei nuovi convertiti all'Islam. A parte questo, colgo l'occasione di avere molti dubbi sulla genuinità della prima metà della Shahada, la confessione di fede islamica, L-I-L-E accento acuto illallah uguale. Non ci è Dio all'infuori di Allah, in quanto potrebbe essere stata sicuramente copiata dalla Bibbia. Non ci è Dio all'infuori di me, Isaia 45.5, 14, 21. Deut 32.39, 4.35. Ingannevoli equivoci. La comprensione che i musulmani hanno della Trinità biblica si basa sull'insegnamento del Corano, che afferma che per i cristiani la Trinità consista del padre, Allah, madre, dea moglie di Allah e il figlio Gesù. Sura 5, 116, come se Maria fosse una dea parte delle tre persone della Trinità biblica. Sic. Cause sconosciute. Posso immaginarmi due cause che hanno originato questo equivoco del Corano. Forse parte di quando ancora gli arabi dell'epoca preislamica adoravano Allat, o Allat, la moglie di Allah e dea della fecondità. Sura 53, 19. Una setta gnostica, quella dei coloridiani, ha sostenuto quest'idea ed è vissuta nel Medio Oriente al tempo della compilazione del Corano. Questa potrebbe essere facilmente la fonte dell'equivoco così grossolano che, chissà perché, Maometto ha fatto così diventare una parola d'uomo quella di Allah. Questo storpiamento tragico della Trinità biblica è rimasta in loro fino ad oggi. Allah, per il musulmano, è uno, in arabo wahid, e non ha né compagni né uguali. Nel Corano leggiamo: non invocare nessun altro Dio insieme ad Allah. Non è Dio all'infuori di Lui. Sura 28, 88. Quindi Allah è totalmente diverso, totalmente distinto, totalmente unico, trascendente a tal punto che non si degna di partecipare nulla nella sua creazione. Per il fatto che è unico, nessun altro può dividere con Lui nemmeno un atomo della sua forza e della sua autorità divina. Il Corano mette in chiaro che Allah non ha figli, né padre né parenti e neanche simili. Come poi possano i musulmani parlare di un Dio che non può comunicare con l'uomo, o come possano pregarlo e conoscere la sua risposta, rimane un mistero. Risposte inequivocabili? Dire a un musulmano che Dio è nostro padre per lui è come dire che nostra madre e Allah hanno avuto un rapporto sessuale. Quando diciamo che Dio è un padre per noi, è d'obbligo precisare che ci stiamo riferendo ad una relazione paterna, a un padre perfetto e perciò misericordioso, amorevole, protettivo, eccetera. Il problema che sta a monte per i nostri amici musulmani è dato dal loro stereotipo di padre, anche se questa prerogativa ovviamente non è esclusiva a un popolo soltanto. Spesso il padre terreno può essere stato un padre padrone, dispotico, che ha preteso un'ubbidienza assoluta, cieca ed incondizionata. Piuttosto, al contrario, Dio Trino si è manifestato come Padre Celeste per la protezione e cura che mantiene verso di noi, fino al punto di offrirci, senza meriti umani, la salvezza tramite Cristo, affinché non siamo dannati per l'eternità. Ci ha così offerto, per sola grazia, di divenire coeredi con Cristo del suo regno celeste. Affermare il Dio Trino. La dottrina della Trinità costituisce certamente uno dei temi più difficili della fede cristiana. Nonostante le derisioni e le opposizioni, da 2000 anni i cristiani testimoniano della loro fede in un Dio Trino, senza avere la pretesa di darne una spiegazione rigorosamente razionale. Come cristiano, chiedo quindi a chi sia scettico su questa dottrina di essere paziente nel valutare le ragioni della fede che è stata tramandata una volta per sempre. Una cosa è certa: la divinità di Israele e dei cristiani è una. La scrittura al riguardo è precisa. Ascolta Israele, l'Eterno, il nostro Dio, l'Eterno, è uno. Deuteronomio 6:4. Questa è la professione di fede ebraica, valida ancora oggi. Ora il mediatore non è mediatore di una sola parte, ma Dio è uno. Galati 3:20. Paolo si appella all'antica proclamazione ebraica. Nessun giudeo avrebbe osato metterla in discussione, nemmeno per un momento. E infatti, anche se vi sono i cosiddetti dei sia in cielo che in terra, come vi sono molti dei e molti signori, per noi ci è un solo Dio, il Padre dal quale sono tutte le cose, e noi in Lui, e un solo Signore, Gesù Cristo, per mezzo del quale sono tutte le cose, e noi esistiamo, per mezzo di Lui, 1 Corinzi 8:6. I pagani adoravano una pletora di dei e dee, ognuno dei quali aveva la sua propria sfera d'azione. Paolo asserisce che l'unico Dio dei cristiani sia responsabile di tutte le cose. Vi è infatti un solo Dio, ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini. Cristo Gesù uomo, 1 Timoteo 2:5. Tu credi che vi è un solo Dio, fai bene, anche i demoni credono e tremano. Giacomo 2:19. La fede dei demoni è monoteista, i politeisti sono peggio dei demoni. Or questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Giovanni 17:3. Vi è un unico corpo e un unico spirito, come pure siete stati chiamati, nell'unica speranza della vostra vocazione. Vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo, un Dio unico e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti. Efesini 4:4-6. Vi è dunque un solo Dio. I cristiani però, pur affermando che vi sia un solo Dio, contemporaneamente sostengono anche che nella Deità sussistano tre persone, uguali nella natura ma distinte come persone.

è data dal fatto che tutte e tre vengano definite Dio. Apocalisse 1:6 «E ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo. A Lui sia la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Amen». Il Padre di Gesù viene chiamato Dio. Ebrei 1:8 del Figlio invece dice «O Dio, il tuo trono è per i secoli dei secoli. Lo scettro del tuo regno è scettro di giustizia». Il Figlio viene chiamato Dio. Atti 5:3-4 «Ma Pietro disse, Anania, perché ha Satana riempito il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo e trattenere una parte del prezzo del podere? Se questo restava invenduto, non rimaneva tuo? E il ricavato della vendita non era forse a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Lo Spirito Santo viene chiamato Dio. Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza nel cielo, il Padre, la Parola e lo Spirito Santo, e questi tre sono uno, 1 Giovanni 5:7. Il fatto che Dio sia trino non deve farci cadere in questi errori. Il sabellianesimo, o trinità di funzioni, che ritiene vi siano tre aspetti, o manifestazioni di una sola persona. Volendo con questo concetto far notare come un uomo possa essere un figlio, un marito e un padre, contemporaneamente. Il triteismo, che ritiene vi siano tre dei piuttosto che tre distinzioni personali di un Dio. In tal modo si cadrebbe nel politeismo. L'arianesimo insegna che il Figlio e lo Spirito Santo sono esseri inferiori rispetto al Padre, il quale ne avrebbe decretato l'esistenza, per fare di loro i suoi agenti nei rapporti con il mondo e con l'uomo. Un sondaggio tra i convertiti all'Islam cita il monoteismo, in opposizione alla dottrina della Trinità, come attrazione più grande dell'Islam. Per i convertiti è un grande problema capire il rapporto tra Gesù e la Trinità, perché associa un essere umano a Dio. Chiedono come avrebbe potuto Dio abbassare se stesso associandosi ad un essere umano e come avrebbe permesso che questo essere umano fosse ucciso. Ovviamente questo modo di credere nell'unicità di Dio, un Dio totalmente trascendente, implica il rigetto di Gesù come figlio di Dio. Trinità, monoteismo assoluto. Tutti i cristiani credono fermamente che ci sia un Dio solo e solo Lui deve essere il soggetto della nostra adorazione e del nostro servizio. La Bibbia, sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento, dice ripetutamente che Cuti è un solo Dio. Deuteronomio 6:4-5, Marco mezzogiorno e 29, Romani 3:5, 1. Timoteo 1:17, Giacomo 2:19. Forse la più chiara definizione si trova in 1 Corinzi 8:4. Nunc è che un Dio solo. Dio è uno e ci comanda di amarlo con tutto il nostro cuore. Il versetto chiave della Torah del profeta Mosè dichiara che l'Eterno, Yahweh, il nostro Dio, è l'unico Signore. Tu amerai dunque l'Eterno, Yahweh, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Deuteronomio 6:4-5. In Genesi 11:7-1:26 troviamo un verbo al plurale per descrivere l'azione dell'unico Dio. Scendiamo, facciamo. Una delle parole ebraiche per Dio è ELOHIM, normalmente tradotto con Dio. La cosa importante di questa parola è che è una parola plurale. Nonostante ciò, non viene mai tradotta con Dei. I musulmani dicono che si tratti del noi regale, anche se i linguisti non riconoscono il noi regale, né in arabo né in ebraico. In Deuteronomio 6:4 leggiamo, Deuteronomio 6:4, ascolta, Israele, Yahweh, Elohim nostro, Yahweh 1, SHMA, Israel, Yahweh, ELOHNU, Yahweh, ECHAD. Gesù Cristo, parlando più di 1000 anni dopo il profeta Mosè, disse «Il Signore, nostro Dio, è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Marco 12, 28-30 e Matteo 22-37. Ricordati che Gesù, il quale sta parlando, è l'uomo che proclamava di essere uguale a Dio. Quindi tutti e due, Torah e Vangelo, sono d'accordo sul fatto che Dio è uno. Il comandamento per noi è di amare un solo Dio. Solo Lui ha il diritto di pretendere la nostra completa fedeltà. Tutti gli altri dei che l'uomo inventa sono completamente falsi. Osea 13, 2-3. Credere nei tre in uno. Probabilmente la più grande critica dei musulmani ai cristiani è l'idea falsa che i cristiani credono in tre dei. Chiedono gli islamici come uno più uno più uno può essere uguale a uno, considerando che uno rappresenti un unico Dio separato dagli altri. Ovviamente non è questo che credono i cristiani. Il Dio dei cristiani non consiste in tre dei a sé stanti, ma in tre persone che sussistono in una unica natura divina. Sarebbe forse più corretto chiedere, può uno per uno per uno essere uno? Il Nuovo Testamento ci dà solo piccoli indizi per entrare nel mistero di Dio, come tre in uno. In Giovanni 1,18 troviamo che l'unico Dio fattosi carne, Gesù Cristo, è nel seno del Padre. Dio il Figlio è partecipe della stessa natura del Padre e dello Spirito Santo, senza inizio e senza fine. Lo Spirito di Dio, 1 Corinzi 2,10-12, è anche Lui Dio. Quindi Dio il Figlio è Dio, il Padre è Dio, lo Spirito è Dio. Quanto strano e misterioso è questo per la mente umana, ma la Bibbia, quale vera parola di Dio, ci comunica queste cose. Il diagramma a sinistra potrebbe aiutarci ad immaginare. Vorrei vedere il diagramma, la definizione di Trinità. Dunque, qual è la definizione corretta della Trinità? Ai nostri amici musulmani diciamo che, dalle scritture troviamo rivelata un'unità divina in tre persone. Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Questa è la Trinità. I musulmani chiedono dove nelle scritture appare la parola Trinità. Dobbiamo ammettere dall'inizio che la parola Trinità non appare mai nella Bibbia, neanche una volta, e una parola che ai tempi non esisteva nemmeno. La parola Trinità, difatti, è un termine teologico adottato successivamente dai cristiani per definire ciò che la Bibbia insegna riguardo Dio. La parola Trinità nella prima Chiesa significava semplicemente tre, ma era sempre sottolineata l'unità della natura divina. Per essere conformi alla rivelazione biblica, i cristiani devono ugualmente enfatizzare che Dio è uno in quanto a natura e tre in quanto a persone. Oggi la Chiesa ha adattato la parola al significato di tre in unità, oppure trino. Anche se Dio è immensamente complesso e non può essere compreso esaustivamente, Egli ha rivelato se stesso nella Scrittura e può essere veramente conosciuto. I teologi della prima Chiesa lottavano con la difficoltà di definire Dio attraverso ciò che è rivelato dalla Scrittura, con le limitazioni della lingua umana, la quale non ha parola per esprimere la realtà di un Dio che è trino. Anche questa definizione sembra controsenso. In italiano ed illustra il punto. Molte parole tentando di esprimere la rivelazione di Dio di se stesso. Un teologo della prima Chiesa, Tertulliano, 145-220 d.C., ha creato 590 nuovi sostantivi, 284 nuovi aggettivi e 161 nuovi verbi per aiutare a spiegare questa ed altre idee teologiche espresse nelle scritture. Idee che a causa della loro raffinatezza avevano bisogno di una nuova terminologia per essere comprese. È stato Tertulliano che ha trovato la parola Trinità più di 500 anni prima che il Corano fosse scritto, dove la sua validità è discussa. Passando gli anni, Trinità è diventata la parola accettata per questo concetto. È impossibile definire completamente il mistero di Dio come trino. Che ci sia un Dio solo e che questo Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo è la più fondamentale fede cristiana. Tutta la fede cristiana dipende dalla verità di questa espressione singolare. La parola Trinità è semplicemente usata per esprimere ciò che le scritture delineano come Dio che sussiste in tre persone infinite, personali, nella completa unità di volontà, di intenzione, d'azione e d'amore, anche se hanno relazioni diverse e non sono divisi. Le scritture parlano di Dio Padre che manda il Figlio, Giovanni 17:3-18, di Dio Figlio che è Creatore, Giovanni 1:1-3, e Dio Spirito Santo. Egli benedice, Efesini 1:3-4 dà inizio. Le scritture parlano pure di Dio Figlio che agisce nella storia, prima, durante il tempo dei profeti, Genesi 32:25-30, Esodo 3:2-5, 13:21, 33:9-11, Giudici 2:1 e dopo, quando è fisicamente incarnato come il. Infine le scritture parlano di Dio Spirito Santo che risiede nei discepoli di Gesù Cristo, che li guida, li istruisce e la loro potenza, Giovanni 14:16-17, è colui che fa da mediatore per Gesù Cristo e della sua opera d'espiazione, Giovanni 15:26. Gesù si riferisce a questa Trinità in unità quando comanda ai suoi apostoli di andare in ogni luogo per ordinare alle persone a diventare suoi discepoli e a battezzarli, punto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Matteo 28:19. Conclusione. È quindi corretto accusare i cristiani di politeismo shirk? Dallo studio sopra esposto è chiaro che i cristiani, da sempre, hanno creduto in un solo Dio. Tuttora la Bibbia ci dice che quest'unico Dio ha agito nella storia, mostrando se stesso Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. La sfida è, come è l'Onnipotente Dio, deve essere giudicato dalla logica umana oppure è libero di rivelare se stesso come egli è, al di là della comprensione o immaginazione umana? Come menzionato prima, la parola Trinità sta come abbreviazione per il concetto di tre in uno. Etotio Padre che ama e salva il mondo tramite Dio Figlio, attraverso Dio Spirito Santo. Se diciamo meno di questo, siamo colpevoli di incredulità nelle parole della Bibbia. Se diciamo più di questo, siamo colpevoli di speculazione, mettendo le nostre proprie idee nella Bibbia. Non dobbiamo soltanto dire no quando Dio dice no, ma dobbiamo anche dire sì quando Dio dice sì, Barth. Non lasciamoci sviare da coloro che non hanno letto o capito le scritture. Non lasciamoci confondere da false accuse. Esaminiamo noi stessi la nascita storica, la vita, la morte e la resurrezione di Gesù Cristo e la storia che segue negli Atti degli Apostoli. Solo allora potrai giudicare l'affermazione biblica di Dio unico, Tawhid, Padre, Figlio e Spirito Santo, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra. E ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre, Filippesi 2:6-11.